Allora, questa mattina al Tribunale di Roma in Piazzale Clodio si è svolta la prima udienza del processo per i fatti del 4 ottobre 2003 all'Eur, nel quale appunto c'è stata una grande manifestazione in opposizione per portare la propria voce sotto al Palazzo dei Congressi, dove si svolgevano i lavori per la rettifica della Costituzione europea appunto di stampo, così come questa che verrà firmata poi alla fine il 29 ottobre, di stampo assolutamente neoliberista, fascista, abbastanza improntata verso logiche di mercato, così come si è svolto quel giorno nel quale appunto a chi voleva portare una voce dal basso divergente è stato risposto solo unicamente con la forza e con una blindatura di tutto l'Eur, a seguito del quale appunto il PM Vitello ha ordinato 14 ordinanze di misura cautelare a seguito, dopo 3 mesi, in gennaio del 2004, a carico di 14 attivisti del movimento, ritenuti i principali responsabili degli incidenti che si svilupparono quel giorno. Questa mattina appunto c'è stata la prima udienza che ha visto il rinvio a giudizio indiscriminatamente, anche senza minimamente considerare la differenziazione dei reati e le prove a carico, avendo smontato, diciamo, tutto l'impianto accusatorio da parte dell'avvocato Marco Lucentini. Si è visto rinvio a giudizio di tutti e 14 gli attivisti per il 21 gennaio 2005. Il tribunale questa mattina ha visto una blindatura che, seppur ridimensionata rispetto alla partecipazione, aveva molto a che fare proprio anche con la giornata del 4 ottobre 2003, in quanto era assolutamente presidiato da polizia e carabinieri, e l'accesso solo unicamente per quell'udienza, che era aperta e fatta appunto a porte aperte, era vincolato alla consegna ad alcuni rappresentanti della Polizia di Stato e della Digos dei documenti di chi aveva intenzione di partecipare solo e unicamente per quanto riguardava quella udienza per i fatti del 4 ottobre. Questo può essere, è un elemento che appunto mette in risalto come non è possibile assolutamente esprimere una qualsiasi forma di dissenso per quanto riguarda i giorni della contestazione, ma ancor meno si è rei e si continua a considerare rei e colpevole anche chi vuole partecipare allo svolgimento di questo processo solo come uditore.